Latte di soia scremato senza OGM. Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino. Succo d'aloe. Va bene all'intestino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà. Yogurt bianco, senza zucchero. No, quello bianco cremoso che ci mettono lo zucchero e la panna. Bianco, normale. Coi fermenti lattici. Bifidus. Bulgaricus. Ma che cosa sarà mai? Acidofilus. Succo di papaya contro l'invecchiamento. Muesli biologico integrale multifibra. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Fette biscottate senza grassi vegetali idrogenati. Assaggiare un goccettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Succo di mirtillo contro i radicali liberi. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Acqua oligominerale magra e bella, povera di sodio, residuo fisso 0,1%. No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Tisana alla malva, al tiglio, all'equiseto. Biscotti senza burro, senza zucchero, senza latte, senza uova, senza... Ma che cos'è questa robina qua? No. Ma che bontà. I biscotti no. Ma che gustino. Si fa senza. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Si fa senza. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato. Si fa senza. No. No, i biscotti no. Si fa senza. Abbella tutta! Salve, sacra luce. Qualcuno mi sta guardando? Sul seno trasparente. È meraviglioso! Mi tengo sempre in ordine, sempre in ordine. Qualsiasi cosa accada, mi tengo sempre in ordine. Dov'è la mia spazzola? Hai visto la mia spazzola? Avete visto la mia spazzola? Dov'è la mia spazzola? La spazzola è nella borsa. Quella che uso per andare al mercato e per venire al mare. Eccola, eccola. Mi spazzolo tutti i giorni i miei capelli d'oro. Normalmente non rimetto le cose dentro dopo l'uso, no. Le lascio in giro. E le rimetto sempre in ordine alla fine del giorno. E poi sono sempre in ritardo, eternamente in ritardo. Buongiorno, mi chiamo Winnie Please. Che giorno divino. Come mi sta questo costume? Il nero sfina e il rosa ingrassa e i tacchi slanciano, vero? Domani mi metterò i tacchi. Dovrei mettermi lo smalto, ma ho le unghie piccole e tonde, piccole e tonde. Mi trovi ingrassata? Come mi sta? Come mi sta questo costume? Oggi è un giorno felice. Da domani comincio una nuova dieta. Da dopodomani, lunedì, ho un improvviso calo di zuccheri. Mi chiamo Winnie Please e sono eternamente a dieta. Le ho provate tutte, ma non è servito a niente. Nessun cambiamento, solo dolori. Chi è di voi che è a dieta? Io le ho provate davvero tutte. La dieta punti con il sesso, la dieta del fantino, la dieta della banana, la dieta zona. E la dieta zona è quella in cui la zona del frigo e della dispensa la circondi di filo spinato. La dieta del mandarino, la dieta del melograno. Ho ingoiato anche una tenia. La tenia è morta dalla fame. La dieta del pompelmo che brucia i grassi, la dieta dissociata, la dieta del lunedì, la dieta H2O. Oh, puoi mangiare ciò che vuoi, ma devi bere 10 litri di acqua al giorno. E non hai tempo di mangiare perché sei tutto il giorno al cesso. Oh, perdi 5 kg alla settimana. 5 kg alla settimana, ma anche tutti gli amici perché sei sempre a pisciare. Ho mangiato per anni cibi senza grassi, senza zuccheri, senza uova, senza sale, senza gusto, ma non è servito a niente. Mi facevano ingrassare anche quelli. Mi chiamo Winnie Please e vi spiego la mia teoria della relatività applicata alle calorie. Dimagrire è un'impresa che non si addice ai codardi. Quello che mangio mentre nessuno mi guarda non contiene calorie. Il cibo preso direttamente dalla pentola mentre cucino non conta. Tutto ciò che si mangia in piedi e in fretta, grazie alla forza di gravità, va giù subito e ti dimentichi di averlo mangiato. I cibi per bambini non hanno calorie perché sono per bambini. Le calorie assunte guardando un film o ascoltando la radio non contano perché sono parte di un evento culturale. Cibo spirituale. Da domani comincio una nuova dieta. Da domani, ho detto. Il primo giorno tutto perfetto, pesato. Il secondo giorno ho fame e sgarro. Il terzo giorno mi abbuffo. Oh, in 15 anni ho perso 310 kg, grammo più, grammo meno. E ne ho ripresi 325, grammo più, grammo meno. Ancora non camminavo e già mi avevano messo a dieta. Ho indossato reggiseni riducenti e mutande contenitive. Vestivo sempre di nero per non sembrare una balena rosa. Tutte le mie amiche di scuola andavano a danza classica e facevano il saggio a fine anno con il tutù color pastello, i collant bianchi, i capelli raccolti. Sembravano piccoli cigni, mentre io sudavo pedalando 4 ore al giorno in camera mia sulla cyclette, infagottata nella tuta blu felpata. Ho pedalato per anni. È presto per cantare una canzone? Posso cantare una canzone? Il canto deve nascere dal cuore. Ora, per un minuto, smetto di parlare e canto. Canta! Canta la tua canzone, Winnie! Sera, i piedi gonfi avrai. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera, sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, ti ammazzi con i bignè. Amore mio, ti voglio bene come sei. Sei eccitante al punto che ti sposerei. E poi vedrà che un po' di moto t'aiuterà. Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i bignè. Olè. Rosalina, Fabio Concato, un mito per tutte le ragazze grasse degli anni 80. Sono nata grassa in una famiglia di grassi. Ho nonni grassi, genitori grassi, pensieri grassi, gatti grassi, coltivo, piante grasse. Il mio babbo diceva: quattro cose so cattive e magre: oche, donne, uomini e capre. Il mio fidanzato era magro, ma poi è ingrassato anche lui. Il mio dietologo, un uomo grasso e calvo, mi dice: invece di mangiare, si soddisfi col sesso. La mia psicanalista, una donna alta e magrissima: se proprio non fai sesso, soddisfati mangiando. Ma mettetevi d'accordo, no? Fate un summit. Com'è che si chiama la barca di 30 metri della mia psicanalista, quella che sta giù al porto di Porto Ercole? Grazie Elena. La mia nuova dieta, la dieta urto: colazione, sedano, carote, finocchi; pranzo, carote, finocchi, sedano; cena, finocchi, sedano, carote. Si può invertire l'ordine dei pasti. O con la dieta urto si perdono 5 kg in una settimana, con la dieta narto 3 kg in 2 ore, perché narto te lo tagliano proprio. Te lo sostituiscono poi con un delizioso moncherino in titanio ultraleggero. Su www.checarinoilmoncherino.com puoi scegliere tra migliaia di deliziosi modelli. Un saluto da Teletruffa, che la verità te la dice tutta, bella o brutta, perché se la truffa non frutta, allora siamo alla frutta. Se i dolci facessero dimagrire, io sarei anoressica, perché la cosa che non sopporto delle diete è che ti vietano i dolci. Quando io sono a dieta, i pasticceri falliscono. Io mi sento in colpa, mi viene l'ansia e ricomincio a mangiare i dolci. L'unica dieta che mi ha fatto dimagrire: il digiuno assoluto. Oh, ho perso 3 kg in una settimana. Sono andata a Lourdes per ringraziare. Mi è apparsa la Madonna e mi ha detto: «Magna Elena, che la vita è bella con la panza piena!» Sono tornata dal dietologo e mi ha detto: «Ma no, lei ha perso solo liquidi!» E ci credo, 150 euro a visita, una volta alla settimana, per anni, senza la fattura. Com'è che si chiama la barca di 40 metri del mio dietologo, quella che sta giù al porto di Porto Santo Stefano? Grazie Elena, seconda! Il dietologo grasso e la psicanalista magra hanno fatto un briefing, si sono sposati. Il mio sogno era addormentarmi grassa e svegliarmi magra, come le modelle delle riviste, con un culetto tondo, alto e sodo, e due tettine sode, tonde, alte, praticamente due orecchini. Ci ho provato anche coi massaggi. Oh, 2 kg a seduta, ha perso la signorina a forza di massaggiare la mia ciccia. E con la ginnastica aerobica, lo yoga, la ginnastica della rana, gamba destra su ginocchio sinistro, piede sinistro su coscia destra, mano destra su chiappa sinistra, mano sinistra su spalla destra, e se non ti rompi prima ti vengono 2 chiappe così. Mi chiamo Winnie Please e sono una ragazza grassa con la G maiuscola. Finalmente è arrivata a Montemerano Miss Cicciona! Una creatura enorme, una bellezza generosa, un'abbondanza maestosa! metro e mezzo di larghezza. Ecco a voi Winnie, please. La donna più grassa del mondo. 25 anni e 235 kg di strabordante ciccia. Ok, ti sei mangiata un canterano? Per sole 10 lire la vedrete ballare una voluttuosa danza del ventre. Sì, la danza della panza. La grassa odalisca si alza la gonna, si sbottona la camicia. Entrate, potrete toccarle anche le cosce, anche le cosce. E con un extra di poche lire potrete toccarle anche il culo, anche il culo. Winnie, please, la donna più grassa del mondo. Solo per oggi ai poderi di Montemerano. E poi il baraccone di Miss Ciccione e i suoi musici riprenderà il suo giro a Manciano, Saturnia, Montemerano, Poggio Murella, Poggio Capanne, Marsiliana, Capalbio, La Polverosa, Alberese, Talamone, Fonte Blanda e tutti i paesi e le città del Regno d'Italia, d'Europa e Sud America. Solo per oggi ai poderi di Montemerano. Affrettatevi, più gente viene più bestie si vede. Affrettatevi. Mi sono stancata di essere grassa ma simpatica. Voglio diventare magra e stronza. Lo sapete perché tutte le magre sono stronze? Perché c'hanno fame, c'hanno. È in edicola Stronza Moderna, a soli 2 euro, con tutti i consigli, le diete, i segreti, per diventare una magra e stronza perfetta. Mi presti 2 euro per comprare Stronza Moderna? No! L'importante, dicono, è essere belli dentro. Ho un bel fegato, una milza spettacolare, un pancreas favoloso, un intestino lunghissimo. E invece di guardarmi allo specchio, mi faccio fare le ecografie. Il mio macellaio, il Giannerini, quello che c'ha il negozio I Piaceri della Carne, mi ha consigliato la dieta francese. Cara, bevi tanta acqua, ma tanta, e fai tanto sesso, ma tanto. Ho provato anche la dieta francese. Non sono dimagrita, sono rimasta incinta. L'unico momento in cui la pancia è apprezzata, coccolata, esibita, amata, invidiata, è quando sei incinta. Tutti te la toccano e dicono: ma che bella pancia! Veramente ce l'ho sempre avuta. Questo paradiso però dura 9 mesi, solo 9 mesi. Appena espulso il pupo, bisogna essere di nuovo in forma perfetta, subito con la pancia piatta e perdere tutti i chili gioiosamente presi. Sono andata a fare shopping ieri in via 20 settembre. Ci ho messo 3 ore con l'aiuto di 2 commesse a togliermi l'abitino Benetton che a fatica mi ero infilata. Mi entrava solo in una gamba. Ho chiesto una taglia un po' più grande. La commessa, carina e sorridente, mi dice: sono tutte taglie uniche, carina e sorridente, carina e sorridente, carina e sorridente. Io dico: ma non siamo tutti uguali. La commessa, carina e sorridente, risponde: purtroppo non siamo tutti uguali. La commessa, carina e sorridente, carina e sorridente, carina e sorridente. Il 78% della popolazione femminile indossa taglie dalla 46 in su. Tu che taglia hai? Nel mondo 2 donne su 3 vorrebbero dimagrire. Il loro unico, vero, grande obiettivo nella vita è di dimagrire. Farebbero di tutto per dimagrire. solo dimagrire, dai 4 ai 10 kg, dai 4 ai 10 kg, dai 4 ai 10 kg, farebbero di tutto per dimagrire. La maggioranza delle donne nel mondo vorrebbe essere più magra. L'industria del dimagrimento nel ricco Occidente ha un giro di affari di oltre 80 miliardi di dollari all'anno. Nel terzo mondo muoiono di fame 70 milioni di persone ogni anno. 70 milioni di persone ogni anno. Mi chiamo Winnie Please e dico sempre la verità. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Avere 50 anni e dimostrarne 40, 40 anni e dimostrarne 30, 30 anni e dimostrarne 20, 20 anni e sembrare una bambina. ...1978... è il compleanno di Roberta Terrosi, la mia compagna di banco. Giochiamo a mamma e figlia con le nostre bambole. Luisa Giovannini alla Barbie sposa, Moira Marconi alla Barbie debuttante, Gabriella Pari alla Barbie principessa, Roberta alla Barbie esploratrice. Roberta ha anche il camper di Barbie, il castello di Barbie, la piscina di Barbie e tutti i vestiti di Barbie. Io avevo Paffutella, che beveva il latte dal biberon, beveva il latte dal biberon, pigiava il naso e cantava: son piccina, son carina, son la gioia di mamma, se mi sporco la vestina, il papà fa cicchiccia, il papà fa cicchiccia, il papà fa cicchiccia. Aveva un abito a fiori e i capelli biondi coi boccoli, Paffutella, e le guance tonde e tutte rosse, tutte rosse. Per questo si chiamava Paffutella. Io pettino la mia bambina. Roberta ha gli occhi azzurri, ha le trecce bionde come la Barbie esploratrice, ha un vestitino rosa fucsia, aderente, aderente. È magra, magra. Io ho uno scamiciato marroncino, largo, sembra una vela da barca, una vela da barca. Roberta smette improvvisamente di giocare con me e di corsa si avvicina alla scrivania rosa, vicino al lettino con tutti i peluche, tira fuori dallo zaino di Barbie l'astuccio di Barbie, apre l'astuccio, prende tra i pennarelli colorati il taglierino di scuola, il taglierino di scuola, mi strappa Paffutella dalle mani. Io mi ribello, ma la mia amica mi chiude in terrazza, tutte le bambine ridono, ridono e applaudono. Lo vedo dal vetro, lo vedo dal vetro. Roberta butta a terra Paffutella, le strappa il vestitino a fiori con il fiocco e con un taglierino le buca la pancia. Taglia e svuota, taglia e svuota, taglia e svuota. Le taglia le cosce ai lati, le incide gli zigomi, le scava le guance paffute. Poi le mette lo smalto di Barbie, il rossetto di Barbie. Le spruzza il profumo di Barbie. La veste con un abito rosa da sposa. La appoggia sul tavolino rotondo del salotto, tra la torta di panna con 8 candeline rosa e le bottiglie di Coca-Cola e di aranciata, di Coca-Cola e di aranciata. E dice sicura, ora sei degna di stare alla mia festa di compleanno. Ora sei bella e magra, bella e magra, bella e magra. Tutte le bambine ridevano, ridevano e cantavano, ridevano e cantavano. Tanti auguri a te e la torta a me. Tanti auguri a te e la torta a me. Tanti auguri a te e la torta a me. Roberta, in piedi sulla sedia, soffia sulle candeline rosa ed esprime un desiderio. Una candelina non spenta cade sul vestito rosa sintetico di Paffutella. Una fiammata e brucia tutto, la torta di panna, i piatti di carta di Barbie, i bicchieri, i festoni con scritto buon compleanno, i palloncini rosa. Anche Paffutella, vestita da sposa, brucia, e le Barbie con i loro vestiti eleganti, e tutti, tutti i regali, anche le trecce bionde di Roberta, le trecce bionde di Roberta. Roberta Terrosi, la mia compagna di banco. È sempre stata bella e magra. Era una reginetta di bellezza. Mi smoneglia, mi spereta, mi smagliano, mi scansano, mi scorreggio. Voleva essere magrissima. Sognava di fare la modella. Pesava i grammi di cibo e vestiva solo firmato. Era 40 chili, aveva la taglia 38 e si sentiva grassa. Si sentiva grassa. Si riempiva di lassativi e fumava, nervosa, tantissime sigarette per non ingrassare. Ingurgitava pillole dimagranti a base di anfetamine per non ingrassare. Masticava cubetti di ghiaccio e beveva solo beveroni Herbalife. Beveroni Herbalife. Le sue braccia erano rami di betulla senza linfa. Senza linfa. Le gambe sembravano quelle di un uccellino. Di un uccellino. Aveva labbra bianche secche secche. Voleva essere magra e bella. Magra e bella. Correva sempre in bagno, anche durante le lezioni. Si ficcava un dito in gola, si inginocchiava davanti al cesso e vomitava. Si ficcava un dito in gola, si inginocchiava davanti al cesso e vomitava. Si ficcava un dito in gola, si inginocchiava davanti al cesso e vomitava. Era ogni giorno più magra, Roberta. Pesava 23 chili. Le si contavano le ossa, ma lei si sentiva ancora grassa. Roberta è andata via, magrissima, in un limpido pomeriggio di maggio. Aveva 20 anni. Sembrava una Barbie, con il vestito rosa fucsia, aderente, aderente, nella sua bara bianca XXS. Vivere affamate, morire giovani, lasciare un bel cadavere. Vivere affamate, morire giovani, lasciare un bel cadavere. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl. Come mi sta questo costume? Il nero sfina? E il rosa ingrassa? E i tacchi slanciano? Domani metterò i tacchi. Mi trovi ingrassata? Dov'è la mia spazzola? Non la trovo mai. Mi pettino tutti i giorni i miei capelli d'oro per essere bella come una Barbie. Mi stanno bene così? La Barbie non mangia mai. La Barbie è sempre perfetta. La Barbie non ha umori. La Barbie non suda. La Barbie non ha peli. La Barbie non ha i brufoli. La Barbie oggi ha 50 anni e ne dimostra sempre 20. Due generazioni di bambine sono cresciute con la Barbie. La Barbie non ha la cellulite, non ha le smagliature. La Barbie non ha le rughe. La Barbie è sempre sorridente. La Barbie non ha le borse sotto gli occhi. Il cervello americano e le braccia, le gambe, il corpo cinesi, thailandesi, coreani, indiani. Una Barbie costa $30 in media. $30 è lo stipendio medio annuale dei bambini cinesi, thailandesi, coreani, indiani che per 10-12 ore al giorno lavorano senza alcuna tutela nelle fabbriche di bambole occidentali. Mi chiamo Winnie Please e dico sempre la verità. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Sono una ragazza Barbie, in un mondo di Barbie. La vita nella plastica è fantastica. Puoi spazzolarmi i capelli, denudarmi tutta, sono una tua creazione. Mettimi il vestito, stringimi, sono la tua bambola. Segui la moda del rosa, baciami qui, puoi toccarmi, puoi giocare con me, sarò sempre tua. Fammi camminare, fammi parlare, fai di me quello che vuoi. Tutte le donne vogliono assomigliarmi. Tutte le donne vorrebbero assomigliare alla Barbie. In Asia le donne si fanno stirare le palpebre per essere meno asiatiche. In Iran si fanno modellare il naso per essere meno iraniane. In Africa si sbiancano la pelle con decoloranti tossici per sembrare meno africane. In Cina si fanno spezzare le gambe ed aggiungere ossa per essere più alte. Nei paesi arabi si fanno ricostruire la vagina per sembrare di nuovo vergini e fare un buon matrimonio, un buon matrimonio. In America si fanno sbiancare l'ano con una pomata per essere davvero perfette anche lì, per essere davvero perfette anche lì. A Beverly Hills si fanno limare i piedi per indossare i sandali alla moda. Andiamo ai Botox Party e ci iniettiamo il botulino per sembrare più giovani. Ci facciamo togliere il grasso dalle cosce per iniettarlo sugli zigomi. Ci rifacciamo il naso con la stessa facilità con cui cambiamo rossetto. Per il diploma o il compleanno dei 18 anni, le ragazze chiedono in regalo la plastica al seno. Le commesse si fanno il culo a rate. Le commesse si fanno il culo a rate. Ci alziamo i glutei, ci gonfiamo le tette, ci stiriamo le rughe, ci tagliamo le pance. Siamo vittime e carnefici di noi stessi, vittime e carnefici, vittime e carnefici. Negli ultimi 2 anni sono morte oltre 40.000 donne in Italia per colpa delle anestesie sbagliate, per chirurgie estetiche in cliniche improvvisate. Il guadagno medio annuale di un chirurgo estetico è di circa 2 milioni di euro all'anno. Il guadagno medio annuale di un chirurgo estetico è di circa 2 milioni di euro all'anno. Mi chiamo Winnie Please e dico sempre la verità. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Vado in una beauty farm, un campo di concentramento per donne grasse, e ti fanno morire. Ti fanno morire di fame, ti fanno morire di fame e di liposuzione. Arriva una donna con una mascherina, con un laser arrostisce il mio grasso, poi mi conficca una verga d'acciaio nelle cosce, conficca e risucchia, conficca e risucchia, conficca e risucchia, conficca e risucchia, mentre il mio grasso cola in un secchio di fianco al letto. Ti fanno morire di fame e di liposuzione, ma con i massaggi, con creme a formula trifasica e gli impacchi di alghe, muori più tonica e rilassata, più tonica e rilassata. Ti fanno morire di fame e di liposuzione, conficca e risucchia, conficca e risucchia, conficca e risucchia. La dieta per decreto legge, la chirurgia estetica obbligatoria per decreto legge, obbligatorio avere tutti i capelli, obbligatorio avere le rughe stirate, obbligatorio essere foto ritoccati, fare le veline, sposare un calciatore, obbligatorio dimostrare la metà dei propri anni, obbligatorio vivere immobili in coma in un letto fino a 120 anni, fino a 120 anni immobili in un letto. Essere è benessere. Essere senza peli, essere senza rughe, essere senza la cellulite, sempre sorridenti, patinate, ritoccate, glitterate, levigate, bene amate, ben menate. Io sono quella che vuoi tu, io sono sempre cosa tua, sempre bella e carina, magra e obbediente, obbediente e sottomessa. Una donna su 3 al mondo viene violentata e picchiata, a casa, al lavoro, alla fermata dell'autobus. Siamo belle da morire. Belle da morire. Oltre 14 milioni di donne in Italia hanno subito violenza fisica, sessuale o psicologica. Siamo belle da morire, belle, magre e obbedienti. Cos'ha in mano, una rosa o una pistola? Dolcetto o scherzetto? Si può morire per amore o le pene d'amore aiutano a vivere? Siamo belle da morire, dolcetto o scherzetto? Cos'ha in mano, una rosa o una pistola? Se son buona e carina mi dai una rosa? Se son birichina usi la pistola? Son piccina, son carina, son la gioia di mamma. Se mi sporco la vestina, il papà fa ciccheccià. Se mi sporco la vestina, il papà fa ciccheccià. Des visages, des figurants à effacer, des faces A, des faces B, à pas feutrer, à traiter. No, questa non la voglio sentire. Mi sveglia ceffoni. L'orecchio inizia a ronzare fortissimo. fortissime le sberle che mi piovono in faccia. Calci, spintoni. Le gambe non le sento più. Le braccia sono piene di lividi. Un pugno. Cado all'indietro. Più niente. Mamma, mi hai abbandonata quando ero molto piccola. E io ho molto sofferto. Mi hanno detto che eri molto povera e anche clandestina, che non riuscivi a mantenere me e i miei 7 fratelli. Papà beveva, ti maltrattava e aveva l'amante. Ma ora che finalmente ce l'ho fatta e sono qua in televisione a ballare, cantare e tutti mi ammirano, ti perdono con tutto il cuore e vorrei ritrovarti. Darei la vita per riabbracciarti. Sono sicura che mi stai guardando. Chiamami al numero del mio cellulare. 333-6-4-1-9-7-6-0. Mamma! Mi chiamo Winnie Please e come tutte le donne ho il diritto di non piacere a chiunque. Ho il diritto di essere umana, non perfetta. Ho il diritto di protestare se vengo maltrattata. Ho il diritto di dire di no. Mi chiamo Winnie Please e oggi sono molto felice perché da domani non comincio una nuova dieta, comincio uno sciopero, un grande sciopero. Non voglio più comprare prodotti pubblicizzati da foto di donne anoressiche, umiliate, sottomesse. Nella pubblicità Dolce & Gabbana una modella viene violentata da uomini impomatati. A settembre del calendario Pirelli c'è l'immagine di uno stupro. Nella pubblicità di una birra un uomo insidia la sua compagna sul divano davanti alla televisione. Nello spot dei Collant un bell'uomo molto elegante strozza la sua donna con una calza di nylon, con una calza di nylon. Mi chiamo Winnie Please e dico sempre la verità. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Mi chiamo Winnie Please e oggi sono molto felice perché non voglio più dimagrire. La dieta è il più potente sedativo politico della storia delle donne. Una popolazione con una tale tranquilla ossessione è una popolazione facilmente manipolabile. Una popolazione con una tale tranquilla ossessione è una popolazione facilmente manipolabile. Che siate in sovrappeso o con qualche chilo in più o solo con dei rotolini di ciccia sui fianchi, Winnie Please ha un consiglio per voi. Andate bene così. Andate bene così. Siete belle tutte. Siete tutte belle. Siete belle tutte. Siete belle tutte. Posso dire la mia preghiera? Prega. Prega la tua preghiera, Winnie. Dico sempre una preghiera prima di andare a dormire. Bontà divina. Corpo mio, ti amo. Amo le mie braccia possenti, le mie cosce grasse. Amo i miei peli, i miei occhi, il mio naso, i miei capelli. Amo le mie grosse dita, i miei piedi, il destro e il sinistro. Le mie mani, la destra e la sinistra. Amo le mie unghie piccole e tonde, le mie smagliature, la mia cellulite e le mie rughe e tutti i miei chili, nessuno escluso, le mie orecchie, le mie ginocchia, i miei seni grandi che hanno allattato, la mia pancia rotonda che ha generato e la mia pelle tutta. Buonanotte. Oggi è stato un giorno davvero felice. Che guardare non mi sazia. Bella, tonda, come la Gioconda. Tu sei la mia dinamite, tu sei la mia bomba. Sexy tanto quanto pesi. I miei sensi tieni sempre accesi. Come la dea della fertilità, porti l'abbondanza insieme alla felicità. E non parlarmi di diete, digiuno. Voglio tante curve come in Formula 1. Bella, sei bella. Per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole. Bella sei bella, per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole. Quando ti abbraccio io ci provo gusto, con le morbidezze in tutte quante al punto giusto. Vivere con te è sempre più una favola, godurioso a letto proprio come a tavola. Sei giusta per me, sei proprio la mia diva, perché la tua bellezza da ogni angolo strariva. E a quelle donnine tutte belle d'ossa preferisco te, perché sei bella grossa. Basta con i calcoli della dieta zona, chiamere altrettanto anche in versione buzzicona. Tanti sacrifici ti procurano solo stress, non ne posso più dei tuoi prodotti no fat. Non dico che ti voglio casa come patinette, ma ti scongiuro scendi da quella cazzo di siglette. Ammiro le tue forme, adoro la tua silhouette. Te la canto un'altra volta perché lo sai che c'è. Bella sei bella, per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole. E non ha senso fare psicodrammi, se aumenti di peso di un paio di grammi. Meglio si abbondare, gli antichi l'hanno detto. Perciò non ti cruciare anche se ingrassi di un etto. Per carità, niente obesità, la malattia più grave della nostra società. Sono d'accordo, zero fast food. Dieta mediterranea e poi non ci pensiamo più. Mica come quelle che per metterci il costume, quando viene la stagione estiva perdono anche il lume. Della ragione fanno ogni follia, per perdere la ciccia insieme a quella l'allegria. Non dare retta all'amica invidiosa, l'uomo preferisce la donna formosa. Se magra e infelici è il nuovo che avanza. Viva la ciccia, viva l'abbondanza. Quindi ti prego non ti sciupare mai, perché sei la più bella e la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella e la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella e la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella e la più bella resterai.